Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Dunque il nostro paese ha un nuovo governo guidato da Mario Monti, il cui primo compito sarà prendere tutti quei provvedimenti necessari per ridare equilibrio ai conti pubblici. Al momento non sappiamo quali iniziative prenderà, anche perché l'esecutivo non è ancora formato, e con quali carte si presenterà di fatto a Bruxelles di fronte appunto a, come dire, alle organizzazioni internazionali che ci hanno fatto questa richiesta molto chiaramente la settimana scorsa, come ricorderete, mandando in tilt i titoli di Stato. Di fatto il Parlamento ha dato il via libera nel weekend alla legge di stabilità, che contiene il super maxi emendamento con i provvedimenti che ci ha chiesto l'Europa per stimolare la crescita del Paese. Sono previste tantissime misure, tagli alle spese dei ministeri per oltre per credo qualcosa come 18 miliardi nel triennio 2012-2014, se non mi ricordo male, ma mi sembra una cifra molto alta, poi ce la commenteremo con i nostri ospiti. Dismissioni, liberalizzazioni, dal 2026 l'età minima per le pensioni di vecchiaia salirà a 67 anni. C'è la partita molto vasta, molto ampia, del taglio di tutti o comunque molti bonus fiscali di cui hanno beneficiato fino ad ora milioni di contribuenti. E tra l'altro, a parte la legge di stabilità, pare abbastanza probabile che ci possano essere altre misure, un'altra manovra correttiva, ma c'è molto nella rosa dei provvedimenti. Noi li scandaglieremo nel dettaglio nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Intanto però oggi cominciamo a fare un punto generale della situazione, perlomeno cominciamo ad anticiparvi le misure che avranno un impatto più concreto fra i cittadini e i consumatori. E anche se i provvedimenti che hanno respiro più ampio, è chiaro che avranno un impatto fra tutti noi. Cito ad esempio appunto la forte richiesta di portare avanti entro un anno la riforma degli albi professionali. Quest'ultima iniziativa è tra l'altro anche al centro di un'importante mobilitazione del mondo forense. Insomma, come dire, scandagliamo la legge di stabilità a 360 gradi, ricordandovi che in questi giorni il Sole 24 Ore ha pubblicato i testi completi delle nuove norme. Noi oggi ci ritorniamo insieme a due colleghi, anzi a tre colleghi del Sole 24 Ore, non vedendoli il terzo perché a Roma, non me lo ricordavo. Salute, ringrazio Giovanni Parente, bentornato, buongiorno Giovanni. Grazie, buongiorno a voi. Bentornata Maria Carla De Cesari, buongiorno. Andrea Candidi, ci sei? Buongiorno da Roma. Ti avevo dimenticato, hai visto come sono poco ospitale questa mattina. E poi a supporto naturalmente delle richieste degli ascoltatori un po' più complesse, l'esperto fiscale che non ci facciamo mai mancare, Luca De Stefani, buongiorno e bentornata anche lei. Grazie, buongiorno a tutti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure chiamateci oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Oggi il Sole 24 Ore è in edicola in una versione speciale, adesso ve ne daremo i dettagli, e si occupa molto anche delle incertezze in cui si trovano molti risparmiatori, che naturalmente hanno visto il loro capitale investito negli ultimi tempi eroso a causa appunto degli scenari nuovi che si sono manifestati sui mercati finanziari. In molti si sono preoccupati anche dopo quello che hanno visto settimana scorsa sui titoli di Stato italiani, e c'è un focus proprio sul Sole di questa mattina, istruzioni per l'uso sui titoli di Stato e su Piazza Affari. E perché segnalo proprio questa iniziativa? Perché noi faremo qualcosa di simile a Salva Danaio mercoledì prossimo, un filo diretto con alcuni esperti del risparmio e voi, che dopo aver interagito con loro nel corso della loro trasmissione, quindi dalle 12 alle 13, questi esperti che sono rappresentanti dell'associazione Ascosim, le SIM di consulenza indipendente, continueranno ad essere a vostra disposizione per altre due ore. Vi daremo domani il numero di telefono al quale potrete chiamare appunto per avere una consulenza in diretta da parte appunto di queste persone. Domani tutti quanti i dettagli, intanto però già vi allerto su questa nostra iniziativa. Allora, prima di entrare nel merito della legge di stabilità, entriamo nel merito della giornata di borsa. Vedo già un meno 1% sul FTSE MIB a Milano, partito con un 2%, ci ho già ripensato. Stessa perdita per le altre piazze europee, meno 1,25 a Parigi, meno 0,94% a Francoforte, Londra meno 0,26, riscivola l'euro a 1,36,58. Stamattina abbiamo sotto i riflettori le banche, ancora una volta, sia perché queste risentono direttamente del lotto volante su cui sono finiti i titoli di Stato, ma anche perché oggi abbiamo un appuntamento importante, un consiglio di amministrazione di Unicredit che vara il piano industriale, ma soprattutto vara un altro imponente piano di ricapitalizzazione da 7,5 miliardi. Il titolo stamattina era partito piuttosto bene, ma già è scivolato e sta perdendo 3 punti. Partito a +3, ne perde 3 adesso. Campari -7, non so cosa sia successo qua. Titoli industriali in calo, Intesa San Paolo -2, Popolare di Milano -2. Questi titoli erano partiti tutti bene e adesso hanno invece virato. Al contrario invece sono ancora positivi Monte dei Paschi +2, Banco Popolare +1,25. I titoli di Stato, dicevamo, stamattina abbiamo avuto un'asta del Tesoro italiano molto attesa. 3 miliardi di titoli a 5 anni, di BTP a 5 anni, ben collocati sul mercato, ma naturalmente un mercato ci ha chiesto un rendimento ancora piuttosto alto, una remunerazione alta al 6,29%. Anche in questo caso, come già successo per le aste delle ultime settimane, ai massimi dal giugno 97. Lo spread fra BTP e Bund stamattina era partito sui 440 punti base, è risalito a 4,60 e il rendimento del BTP decennale, che era sceso, ha ripreso a risalire al 6,4%. Questo per l'ascoltatore che aveva capito male, credo, quello che ho detto prima. Non so perché sostenga che io abbia detto che la borsa perdeva il 46%, ma di papere ne faccio tante, questa stamattina non l'ho fatta. Detto questo, lasciamo la borsa, insomma vediamo un po' Monti cosa farà nelle prossime ore, se potrà ridare serenità definitiva ai mercati. Noi oggi invece, per non saperne leggere né scrivere, parliamo della legge di stabilità. Ci siamo appena lasciati alle spalle un weekend decisivo per il futuro della politica e dell'economia dell'Italia e dell'Europa. I più distratti, chi si è rifugiato in una vacanza lontano da notizie e aggiornamenti, o coloro che hanno volutamente deciso di staccare dopo una settimana ricca di preoccupazioni, si trovano ora ad apprendere ciò che è stato deciso sul futuro del governo e sul tanto discusso maxi emendamento alla legge di stabilità. Fino a 48 ore fa erano tante le misure attese e contenute nelle bozze dei giorni scorsi, tante le ipotesi e le interpretazioni. Punti spinosi come patrimoniale, ritorno all'ICI sulla prima casa e la questione dei cosiddetti licenziamenti facili, venerdì venivano dati già per congelati e scaricati tra le responsabilità del prossimo governo. Tra le attese anche le novità per le infrastrutture, le liberalizzazioni dei servizi locali e delle professioni e l'arrivo di mobilità e cassa integrazione anche per i lavoratori statali, ma anche di sgravi contributivi per i contratti di apprendistato. E ora? Con cosa si trova a dover fare davvero i conti l'italiano che torna ignaro da questo fine settimana? Cosa è stato effettivamente approvato e quali conseguenze ci saranno, nel concreto, per i cittadini? Beh, credo che tutti in qualche maniera saremo toccati appunto dalle conseguenze di questo super pacchetto contenuto nella legge di stabilità, ed altre misure sicuramente arriveranno. Allora, vedo già alcuni sms di alcuni ascoltatori, per esempio Marco, io partirò peraltro proprio con lui dopo aver fatto un quadro generale della situazione, che ci chiede di spiegare con precisione di che cosa si parla quando si parla di patrimoniale, che per la verità sembra essere rientrata nell'agenda di Monti, e quindi lo spiegheremo senz'altro. Da che cosa partiamo, Giovanni? Partiamo intanto con te. Raccontaci anche un po' il Sole 24 Ore di oggi, in questa edizione straordinaria, e la sua guida alla legge di stabilità. Allora, oggi siamo con un'edizione straordinaria, come hai detto tu. La prima parte del giornale è interamente dedicata alla cronaca e agli approfondimenti sull'evoluzione della crisi politica, con l'incarico a Mario Monti, con le ipotesi del nuovo governo e soprattutto con i punti che dovrà toccare il nuovo governo, l'eredità che viene dalla precedente gestione dell'esecutivo Berlusconi, con i decreti da attuare, ma soprattutto le misure sul fronte fiscale, quello del lavoro, da attuare. La seconda parte invece è un approfondimento, un grande approfondimento sulla legge di stabilità. Tocchiamo tutti i principali temi, quindi dal lavoro alle semplificazioni fiscali, alle tante novità per i professionisti, e senza dimenticare anche il capitolo giustizia e quello degli enti locali con il patto di stabilità. Allora, vado subito a Roma da Andrea Candidi, perché l'abbiamo già detto in maniera molto sintetica all'inizio della trasmissione, che oltre a tutte le misure previste dalla legge di stabilità e tutte le altre che Monti non appena avrà la sua rosa di ministri, appunto, prenderà, perché si parla già, lo abbiamo letto sui giornali di questa mattina, di un'altra super manovra, probabilmente da 25 miliardi, qualcosa insomma di molto ampio, di molto importante. C'è anche da dire che però molte misure sono state prese la scorsa estate, due manovre, anche in questo caso correttive dei conti pubblici, e che non sono state ancora completamente attuate, Andrea, e ci sono molte iniziative che ancora stanno percorrendo la strada dell'attuazione. Che cosa c'è in sospeso? Già, sì, non solo poi, Deborah, non solo i due provvedimenti dell'estate, le due manovre, del decreto legge 98 e il 138, ma anche il decreto sviluppo più recente, contengono delle deleghe, insomma dei provvedimenti per il cui funzionamento è richiesto l'approvazione di una serie di decreti successivi da parte dei singoli ministeri, regolamento o decreti che dir si voglia, un bagaglio di 300 provvedimenti che il governo Monti, qualora dovesse dare piena attuazione alle idee che aveva avuto Berlusconi con il precedente governo, dovrebbero essere appunto approvati. È chiaro che presumibilmente non tutto questo pacchetto di norme di attuazione sarà approvato dal governo Monti, è presumibile che lui sceglierà un ordine di priorità che conosceremo probabilmente nei prossimi giorni. In ogni caso si tratta di provvedimenti che vanno appunto da, come dicevi tu, liberalizzazioni, federalismo, semplificazioni fiscali, lavoro, cioè per esempio da capire che cosa farne di tutta quell'eredità che arriva dal collegato lavoro, e quello sarebbe un capitolo enorme, ammortizzatori, statuto dei lavoratori, lavori usuranti. Allora, insomma, si sono aperti dei cantieri che prima di chiudersi probabilmente passeranno forse non mesi ma addirittura anni. Detto questo, prima di sentire anche Luca De Stefani e la nostra Maria Carla De Cesari, io vorrei subito cominciare a sentire anche i nostri ascoltatori per cercare di capire se hanno delle perplessità rispetto a tutte le misure, ma chi non può averle, se non altro perché insomma ci sono richiesti molti sacrifici, ma questo è necessario per come dire, presentarsi in questo momento con dignità a Bruxelles. Allora cominciamo a sentire Marco da Milano, perché così ci permette anche di introdurre singolarmente i vari provvedimenti, i vari singoli pacchetti. Marco, buongiorno. Marco? Vabbè, pazienza. Andiamo a Mario dalla provincia di Udine. Abbiamo qualche problema? Sì, Mario, buongiorno. Sì. Sì, buongiorno a voi e grazie per la bella trasmissione. La cosa che volevo chiedervi è questa, un'opinione vostra sulla proposta ferocemente bella e efficace della Gabanelli di ieri sul Corriere della Sera di passare il contante all'uscita dagli sportelli bancari per eliminare il nero. E è una cosa, in flash soltanto, che mi fa ricordare un'iniziativa dei tempi in cui gli americani occupavano Trieste, ai quali era raccomandato di non usare il DDT perché gli scarafaggi nelle strutture delle case di Trieste antichissime sarebbero morti e le case crollate. Vabbè, adesso lei mi fa un riferimento storico del quale io non ho evidentemente nessun tipo di nozione, Mario. Sì, no, intendevo dire che se si elimina il sommerso del tutto può darsi che crolli l'economia italiana. Era una battuta. È una provocazione. Sì, no, Mario, tra l'altro la pensate voi ascoltatori in maniera molto diversa, perché settimana scorsa un'ascoltatrice invece ha chiesto con vigore, ha fatto una sua proposta del tutto legittima, di come dire, intensificare gli strumenti di lotta ai pagamenti in nero e quant'altro, e io così con lei ho avuto questo tipo di dialogo, nel senso che se non cambiamo noi la testa e non cominciamo ad evitare, per ottenere degli sconti ovunque, di pagare in contante perché magari un artigiano così come un altro professionista ci fa lo sconto, appunto è chiaro che qua questo limite non lo supereremo mai. Di fatto c'è adesso in discussione il tema della possibilità di limitare la possibilità di pagare in contanti, perché servirebbe a contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro sporco. Ci sono altri due obiettivi nuovi rispetto a quelli che già erano in ballo, adesso magari ve li spiegheremo anche, però insomma la proposta della Gabanelli, adesso noi non abbiamo una idea precisa. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi in termini generali, molto generali, poi nel dettaglio ci andremo nelle prossime settimane, vi raccontiamo un po' che cosa prevede la legge di stabilità che ha avuto il via libera nelle fine settimana da parte del Parlamento. In tutto questo naturalmente attendiamo la formazione del nuovo esecutivo Monti, i nuovi ministri e le nuove misure che Monti dovrà presentare a Bruxelles per davvero sistemare i conti pubblici. Ci saranno sacrifici per tutti. Oggi però intanto così spieghiamo ai nostri ascoltatori quello che si sa già rispetto a ciò che contenuto nel maxi emendamento all'interno appunto della legge di stabilità, soprattutto i provvedimenti più generali che hanno un impatto più diretto fra i contribuenti, i nostri ascoltatori e che, gli ascoltatori appunto che sono interessati a questi argomenti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Risolviamo la questione posta dall'ascoltatore precedente Giovanni Parente, aiutami tu. Lui ci chiedeva un commento rispetto all'iniziativa di della Gabanelli appunto sul Corriere della Sera di ieri, che proponeva determinate misure per la lotta all'evasione fiscale, per intensificare appunto gli strumenti di lotta dell'utilizzo del contante. Adesso a prescindere dall'iniziativa di Milena Gabanelli appunto e la pubblicazione sul Corriere della Sera, in realtà noi il nostro paese da anni tenta di scoraggiare l'utilizzo del contante, che costa tanto peraltro al nostro paese. Diciamo che però la sensibilità su questo tema è sempre stata molto ridotta, soprattutto da noi cittadini. Detto questo, adesso che cosa c'è in discussione? Allora, c'è una proposta in ballo che è quello di ulteriormente abbassare la soglia per l'utilizzo del contante. Però fammi fare una premessa, sono brevissimo. Quando si portano avanti le politiche bisognerebbe anche avere in qualche modo una coerenza, no? E quindi da questo punto di vista, se questa soglia del contante è stata prima aumentata, poi abbassata, poi diminuita, poi ulteriormente diminuita, è chiaro che il messaggio che passa non è un messaggio di continuità. Adesso per fortuna, insomma, con l'ultima manovra di Ferragosto è stata portata a 2.500 euro. L'ipotesi in ballo sono due, cioè quella di portarla, di differenziare la soglia di utilizzo del contante, 1.000 euro per evitare operazioni di riciclaggio di denaro sporco, 300/500 euro per consentire la tracciabilità delle operazioni e quindi evitare in qualche modo che si facciano operazioni in nero e che quindi il fisco non ne sia a conoscenza. L'importante anche in questo caso, qualora si optasse per una soglia più bassa, è poi perseguire quella strada e fare in modo che comunque poi tutti gli operatori, dalla pubblica amministrazione agli operatori privati, abbiano la possibilità di ricevere i pagamenti tracciabili, e altrimenti insomma la misura è fine a se stessa e non dà prodotti. Luca De Stefani, che relazione c'è fra le cose che abbiamo appena detto e il pezzo che lei scrive questa mattina sul Sole 24 Ore? Il via libera all'eliminazione almeno formale della tenuta delle scritture contabili per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata, io già qua mi sono perso, oltre che per tutti i professionisti. Queste sono le conseguenze dell'approvazione della legge di stabilità, che prevede che questi soggetti possano sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili. Mi traduce in roscianesco, così almeno capisco, De Stefani. Certo. Allora, le imprese al di sotto di 400.000 euro di volume d'affari, quindi di fatturato, se fanno attività di servizi, oppure al di sotto di 700.000 euro di fatturato, se fanno altri tipi di attività, queste imprese solitamente sono in contabilità semplificata, quindi devono tenere i registri IVA e il registro dei corrispettivi, con delle sanzioni se non è tenuta bene questa contabilità. Ecco che con la manovra approvata, la legge di stabilità approvata sabato, è possibile eliminare la tenuta delle scritture contabili, queste scritture contabili ma anche il libro beni ammortizzabili ed altre, se si tiene solamente un estratto conto e si fanno i bonifici bancari, oppure si incassa tramite bonifico o si paga tramite bonifico bancario, assegni, ricevute bancarie, carte di credito, bancomat e così via. Quindi a fine anno il contribuente potrà prendere il suo estratto conto bancario e fare la differenza tra le entrate e le uscite di carattere economico, quindi non ad esempio un prelevamento per spese personali ma che sia inerente con l'attività, fare le differenze tra le entrate e le uscite e trova l'utile di fine anno. ecco che comunque deve andare a rettificare le uscite, ad esempio, perché per il telefono abbiamo una deduzione fiscale che è pari all'80% e non al 100%, quindi comunque vi sono dei calcoli da fare, però è una buona semplificazione. Vabbè, insomma, sarà anche una buona semplificazione, devo dire che ho capito ben poco, però insomma non, l'importante è che abbiano capito i diretti interessati. Maria Carla De Cesari, se no pensa che l'ho invitata per scherzo, questa mattina sono a sentire le nostre chiacchiere. Maria Carla, la riforma, tutto l'ambito della riforma delle professioni. Nella legge di stabilità sono contenute anche gli indirizzi per la riorganizzazione di molti ordini professionali e peraltro ce n'è uno particolarmente arrabbiato, quello degli avvocati, che ha già dato vita ad una mobilitazione piuttosto importante. Che cosa c'è in ballo, quali novità e perché alcuni ordini professionali sono particolarmente arrabbiati? Ma direi che le due norme che più colpiscono in generale gli ordini professionali contenuti nella legge di stabilità sono una, quella che riguarda le tariffe minime, cioè si dice che la parcella tra professionista e cliente deve essere concordata per iscritto, appunto, tra il professionista e il cliente, e in ogni caso, come dire, non ci deve essere più alcun riferimento alle tariffe minime. In questo modo è stata, come dire, cambiata la manovra di Ferragosto, che invece aveva in qualche modo restaurato le tariffe minime che erano un po' tramontate dopo le liberalizzazioni promosse dal ministro Bersani nella precedente legislatura. L'altra questione che riguarda i professionisti sono le società. Allora si stabilisce nella legge di stabilità che i professionisti possono costituire società, tra l'altro anche società di capitali, senza determinare a questo proposito un limite per i soci non professionisti, quindi solo per i soci finanziatori, e quindi, come dire, si dà questa opportunità. Naturalmente i problemi applicativi sono molti, perché insomma che a partire dalla definizione delle società, dall'abbozzo insomma che le società ricevono nella legge di stabilità, poi dovranno essere emanati i decreti attuativi. Tra l'altro proprio la legge di stabilità abroga la legge del 1815 del 39, che è rimasta in piedi insomma dopo le varie liberalizzazioni per la parte in cui si prevedono le associazioni professionali. Cosa vuol dire? Che le associazioni professionali non potranno più essere fatte? No, però anche qui è da capire come tutta questa normativa troverà una regolamentazione positiva. Ecco, per quello che riguarda questa riorganizzazione delle professioni, come ci spiegavi Maria Carla, tu che tipo di impatto positivo o negativo, che ricadute vedi appunto fra i cittadini, tanto per poterlo fare capire anche a chi ci ascolta? Guarda, molto dipenderà da come gli ordini tenteranno di attuare questa norma sulle tariffe. Allora, se gli ordini in qualche modo prenderanno coscienza del loro ruolo e lo prenderanno in modo fattivo e non semplicemente in contrasto alla legge, secondo me c'è molto spazio per gli ordini in questa situazione, proprio perché le parcelle dei professionisti talvolta sono un rompicapo, un vero e proprio rompicapo. Allora, già la parola rompi mi ero già spaventata di cosa sta dicendo Maria. Sono un vero e proprio rompicapo, quindi il fatto di, naturalmente, saltano i minimi, e questo per i professionisti è un trauma, perché i professionisti sono ritengono che le tariffe minime in che non si modo, possa giocare al ribasso, in sostanza, su certe prestazioni professionali. Certo, però io ritengo che se gli ordini in qualche modo danno delle direttive chiare su come si forma la parcella e su questo gli ordini possono difendere un loro ruolo che effettivamente sia a garanzia dell'utente. Benissimo, allora che ci ascoltiamo adesso? Vorrei sentire Bruno da Milano, perché questo è ancora un po' un equivoco che circola, sul quale ovviamente non possiamo mettere la mano che poi non rispunti fuori. Bruno da Milano, però mi interessa molto la sua domanda. Buongiorno. Buongiorno, dunque io volevo avere qualche informazione in merito al prelievo coatto sui depositi bancari. Ho sentito parlare sabato in televisione, durante il giornale, non so se è solo stata ventilata o se rappresenta Al momento, Bruno, su questo io la posso rassicurare completamente, non esiste un'ipotesi, sì certo, come dire, se ne era parlato, come si è parlato di tante altre cose, ma al momento questo provvedimento non è contenuto da nessuna parte, si è ritornata a ridiscutere dell'eventuale applicazione di una patrimoniale, che è cosa ben diversa, ma del prelievo coatto sui conti correnti. Mi rassicurate tutti quanti su questo fatto, che non esiste nessuna ipotesi del genere in questo momento a tappeto, Giovanni Parente. Al momento no, anche perché non c'è un governo. Esattamente. Andrea Candidi. Assolutamente no, se ne è parlato quando è cominciato a circolare il nome di Amato come possibile. Perché l'aveva già fatta appunto nel 94. Assolutamente no. Era tra l'altro un 6 per 1000 sui conti correnti, sui depositi, esatto. Appunto, tra l'altro avevamo anche ristabilito quale fosse la percentuale. Il prelievo notturno. Il prelievo notturno, esatto. Detto questo invece, spieghiamo che cos'è invece la patrimoniale, che cosa sarebbe una patrimoniale, che peraltro andrebbe a colpire patrimoni anche particolarmente alti, quindi non riguarderebbe tutti, da quello che capisco anche da ciò che pubblica il Sole 24 Ore questa mattina. Giovanni Parente, aiutami tu. Sì, se si dovesse fare, l'ipotesi più accreditata sarebbe colpire i patrimoni dal 1 milione di euro in su. È tutto da vedere se si farà, ed è tutto da vedere su quali tipi di beni si applicherà. Questo peraltro è tutto ciò di cui che è in discussione e che prescinde dalla legge di stabilità. Esatto, non è una misura in vigore, è una delle ipotesi sul tavolo nel caso in cui il governo Monti dovesse fare una manovra di riduzione del debito pubblico, diciamo, non va a coprire le spese correnti una misura del genere. E, quindi ti dicevo, non si sa bene quanto il plafond dovrebbe essere 1 milione di euro, insomma, da 1 milione di euro in su, che ha beni da un milione di euro. La franchigia, chiamiamola esatto, così. La chiamiamo sì. Franchigia in termini tecnici. E l'altro aspetto tutto da valutare è se va a colpire soltanto le proprietà immobiliari del contribuente o va a colpire anche il patrimonio immobiliare, quindi insomma anche titoli, obbligazioni. È ipotizzabile che non vada a colpire titoli di Stato, altrimenti sono tutti infatti. Guarda. Allora ci fermiamo adesso. Suggerimenti perché in viaggio. Abbiamo ripristinato Marco da Milano, poi abbiamo anche un altro Bruno che è lo stesso nome dell'ascoltatore precedente. Ci sono tanti messaggi, adesso vediamo se riusciamo ad accontentare tutti. Magari vi ridiamo anche conto del tema delle pensioni, che cosa cambia con la legge di stabilità. E poi c'è anche così: potrebbe essere desumata forse anche l'ICI sulla prima casa, una tentazione che forse questa esecutivo potrebbe avere, ma insomma di tutto questo ne parleremo solo nelle prossime settimane. Al momento rimaniamo sulla legge di stabilità. Ovviamente la tracciabilità di tutti i pagamenti come al solito scatena gli sms degli ascoltatori. Ci sono i commercianti che si arrabbiano, che continuano a dire sì vabbè, fate un gran parlare sempre di queste campagne, ma poi non sapete quanto a noi commercianti costa consentire ai nostri clienti appunto pagare con bancomat e carta di credito. E vabbè, lo abbiamo detto tante volte, e in tanti appunto ancora ovviamente sponsorizzano invece alla grande ogni tipo di lavoro in nero, e molti dicono quando si pareggerà, lo dice un ascoltatore che si chiama Max, il costo della vita con lo stipendio, io non ne vado più, anche attraverso appunto queste modalità. Qua veramente mi potrei sbizzarrire con la lettura di tanti messaggi su questo tema. Ah, ci saranno i tagli lineari, ci chiede un ascoltatore, così vado a Luca De Stefani, ci metto insieme anche Marco da Milano, così facciamo un po' il punto della situazione sui tagli, i cosiddetti tagli lineari, che potrebbero colpire appunto tutti gli incentivi fiscali che molti contribuenti hanno percepito in questi anni, da quelli sulla ristrutturazione della casa, gli assegni familiari e quant'altro. Sentiamo Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi ricollego al vostro discorso perché la mia domanda è proprio su questo. Ho sentito parlare di questi possibili tagli ai benefici fiscali, no? E io mi domando, sono veramente rabbrividisco, perché dico tutti, anche i sassi sanno che bisogna prima fare il taglio delle tasse, ripristinare il cuneo fiscale, aliquote eccetera, e dopo fare la lotta all'evasione, perché sennò è vero quel discorso che si diceva prima, che in effetti in Italia se si taglia proprio completamente l'evasione probabilmente crolla tutta l'economia, quindi prima bisogna ripristinare una tassazione più giusta, più equa, e invece qua mi si parla di rimettere dei tagli, ma è proprio il contrario di quello che andrebbe fatto. Già siamo spremuti come limoni, noi che paghiamo le tasse onestamente, anche io che per esempio sono una persona abbastanza benestante, mi ritengo, ma con tutto questo aumento di cose che c'è stato comincio anch'io a avere delle difficoltà, quindi dico ma come, cioè, è proprio il contrario, io veramente vado fuori di testa. Lo so, allora qui adesso no Marco, io la ringrazio, vorrei tenermi fuori dalla rosa dei commenti, perché poi ogni volta che si commenta qualcosa si scatenano ulteriormente gli ascoltatori. Voi come sapete già ci siamo anche sbizzarrito un po' troppo nell'esercizio dei commenti, delle prese di posizione individuali. Vorrei mantenermi a quello che abbiamo, cosa stabilisce la legge e che cosa cambierà per i consumatori, per i cittadini, per i contribuenti. E quindi poi, se Luca De Stefani, magari, perché adesso lo interpello su questo tema, volesse intervenire commentando anche la riflessione dell'ascoltatore, può farlo tranquillamente. Io invece gli chiedo di darci un po' qualche dettaglio in più rispetto a quali benefici fiscali verranno presumibilmente tagliati a partire da gennaio, e che cosa colpirebbe questo cosiddetto taglio lineare, appunto, su tutti gli incentivi, che potrebbe essere qualcosa nell'ordine del 5%, così secco su tutto. De Stefani. Allora, la manovra di luglio ha previsto che se entro il 30 settembre del prossimo anno non vi sarà una riduzione dell'indebitamento statale pari a superiore a 4.000 milioni di euro, vi saranno dei tagli lineari su tutte le agevolazioni presenti nel nostro ordinamento tributario, per il 5% nel 2012 e del 20% nel 2013. Facendo un esempio sulla detrazione, quella che ha un'agevolazione un po' più ampia, che è quella delle ristrutturazioni, anzi delle interventi per il risparmio energetico detraibili al 55%, il 55% potrebbe passare al 52,25%. E quindi per tutte le spese che verranno effettuate dal prossimo anno in poi, se questa manovra verrà, se questa previsione verrà attuata, perché non abbia avuto una diminuzione del debito pubblico, su tutti quanti questi pagamenti avremo una riduzione dell'incentivo fiscale, della detrazione fiscale, che passa dal 55% al 52,25%. Solo i benefici fiscali legati alla casa verranno colpiti? No, purtroppo sì. Tutti. Parliamo qui della casa, ma soprattutto le detrazioni, quelle del carico familiare, legate al carico familiare. Poi le detrazioni, quelle del 19%, che sono le spese mediche, le spese per l'asilo nido, queste detrazioni che noi andiamo a indicare nel modello unico, che vanno a detrarre il costo e l'importo dell'imposta da pagare a fine anno, tutte quante verranno colpite in maniera lineare. Vorrei sgombrare il campo ad un'altra paura che hanno molti ascoltatori, e quindi vorrei sentire Ines da Milano. Ines, buongiorno. Pronto, buongiorno. Infatti è una paura che io sono impensionata. Guardi Ines, è la stessa paura che mi ha espresso la mia mamma qualche settimana fa, per cui la capisco benissimo, per cui vorrei proprio spiegare molto bene questa cosa. E può succedere che vengano toccate le pensioni, soprattutto, io non dico chi prende 10.000 euro. No, però dice chi ne prende 800.000, ecco, magari. Esatto, ecco, brava, ecco. Avrei delle problemi, ecco. Ines, anche su questo noi in questo momento ci sentiamo di rassicurare assolutamente tutti i nostri ascoltatori. Maria Carla De Cesari, che cosa dobbiamo aspettarci sul fronte pensionistico? Non prelievi coatti da chi percepisce, appunto, degli introiti minimi mensili, c'è il famoso contributo di solidarietà che è stato già confermato, esattamente, no? Però non riguarda, appunto, assolutamente i pensionati, esattamente, quindi non credo che siamo nell'ordine dei problemi di Ines. Però ecco, sul fronte pensionistico di che cosa stiamo discutendo in questo momento? Ma il problema cosa è sempre quello di ridurre la spesa. Il maxiemendamento in realtà alla legge di stabilità in realtà sancisce ben poco, anzi in realtà prevede una norma abbastanza curiosa. Che cosa prevede? Prevede che nel 2026, in base al meccanismo della speranza di vita, che è quel meccanismo che appunto aggancia in modo automatico dal 2013 il requisito per il pensionamento, appunto l'allungamento della speranza di vita, nel 2026 tutti dovrebbero andare in pensione di vecchiaia con 67 anni. Il maxiemendamento appunto certifica questa proiezione, dice, e se non la raggiunge, dice, se non la raggiungeremo nel 2023 il governo di allora studierà dei correttivi per, come dire, confermare che dal 2026 si andrà in pensione di vecchiaia con 67 anni. Devo dire che appunto è un meccanismo di certificazione un po' balzano, proprio perché, come dire, non si può porre un'ipoteca su quello che sarà l'operato di un futuro governo. Comunque questo è quanto, come dire, il governo Berlusconi è riuscito a fare, avendo, diciamo, in qualche modo messo da parte l'ipotesi di bloccare da una parte le pensioni di anzianità, che sarà quello che probabilmente succederà con il governo Monti, e avendo scartato anche l'ipotesi di calcolare pro rata, cioè vuol dire da qui in avanti, tutti i trattamenti pensionistici con il metodo di calcolo contributivo, cioè rapportato in modo stretto, diciamo, alle contribuzioni che ciascuno di noi versa nel corso della vita professionale. Allora, mi rimangono 30 secondi di tempo, lì assegno ad Andrea Candidi, che ci spiega che cosa vuol dire che dobbiamo aspettare il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in Cassazione. Che cosa succede a noi contribuenti? Vuol dire, cara Debora, detto in roscianesco, come dici tu, che se vuoi fare ricorso in Cassazione paghi il doppio di quello che pagavi prima, c'è poco da fare. Questo sempre con l'obiettivo di scoraggiare un po', magari, che ne so, i tempi lunghi. Sì, certo, il tentativo è sempre quello, alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari aumentando i costi. C'è anche l'aumento del 50% dei ricorsi in appello, delle impugnazioni. E poi c'è un'altra norma che vi volevo ricordare, che riguarda in qualche misura anche i professionisti, tutti i professionisti, e che è quella dell'obbligo della posta elettronica certificata, cioè, sì. Un obbligo che già esisteva da tempo, ma siccome nessuno ha rispettato la legge. Adesso si passa ad essere un po' più severi con questo obbligo. Grazie a tutti per essere stati con noi, a Maria Carla De Cesari, Giovanni Parenta, Andrea Candidi e Luca De Stefani. Abbiamo fatto una puntata che è stato un vero e proprio calderone. Adesso spezzetteremo la trasmissione su ogni singolo argomento, ce ne faremo una appositamente dedicata. Vi ricordo la nostra iniziativa speciale mercoledì, filo diretto con gli esperti del risparmio, il numero a cui potrete chiamare mercoledì 02 46 52 2444, ma domani ve lo ridò. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.